Com'è questa? Quella lì è col letto lungo. Ah, sì. Anche quella di Luca è... alle... ecco. Ogni tanto bisogna metterli in moto questi. E girare a giardi. Si stenderà allora con una calecca. Si è annullato dal vino. Ah, già c'è ancora la calecca è quella là. Quale? Questo è il DM1000. CCR. No, nel DMR no. Sì, viene la prima.